Al primo caso di un giocatore di Serie A contagiato, passeremo da tutti convocati a tutti contagiati? Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Non si svolgeranno manifestazioni sportive con la presenza del pubblico, in modo da prevenire ulteriori occasioni di contagio. Per adesso il Consiglio ha assolutamente ratificato quella che era una proposta delle 19 delle 20 società, in sostanza, che è quello di riprendere le partite sospese. E Juve-Inter, quando si gioca? Dovrebbe giocare domenica o lunedì. Tanto vale per tutti, non è che vale solo per l'Inter, per la Juventus, per il Milan, vale anche per il Lecce, per tutti quanti. Perciò l'importante secondo me adesso è guarirsi da questo coronavirus, sconfiggerlo, giocare a porte chiuse e buonasera. Facciamo come per le gare di moto, comincia a piovere forte, si sospende la gara e si dà la vittoria a quello che è primo in quel momento. Mettiamo che un giocatore di Serie A, spero di no, prenda il coronavirus, cioè tutta la squadra per 14 giorni sarà in quarantena, altro che sforzare il campionato, diventa un disastro, per cui meglio porte chiuse. Per cortesia, potremmo anche sentire il parere autorevole di Vandanara su come fare a contenere il coronavirus, perché qui parlano tutti, scienziati eccetera, ma Vandanara non ha ancora detto la sua. Per favore, aggiornateci su quello che pensa. Beh, potremmo pensarci, carissimi amici, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, whatsapp. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Potremmo pensarci, no? Al parere di Vandanara. Sì, proprio diciamo, sì. Potremmo pensarci o anche no. Come ti pare? Aspetta, Pier, però potremmo anche pensare che ti fermi e riusciamo a sentirti. Sono fermo, che qui muoviamo degli oggetti. Perfetto. Okay. Vai, sono fermo, vai. Vai, no, vai tu, non ti abbiamo sentito. No, vabbè, su Vandanara, dai, andiamo sulle cose più di attualità, direi. Sì, attualità che dice che finalmente ci siamo, si ricomincia, fino a quando si andrà avanti non lo sappiamo, perché ci sono scenari di tutti i tipi, qualcuno l'ha evocato, anche qualche amico che ha mandato i suoi WhatsApp in queste ore. Aspettiamo anche l'ufficialità del calendario, ma si dovrebbe ripartire con sabato Sampdoria Verona di sera e poi domenica da mezzogiorno e mezzo in poi Milan Genoa, Sassuolo Brescia, Spal Parma, Udinese Fiorentina. Fino alle 20:45 alla chiusura di Juventus Inter. Saluto Sandro Sabatini, ciao Sandro. Ciao, buon pomeriggio. Direi finalmente una boccata d'aria fresca, ci voleva. Se dice a me sì, ci voleva, sì. Abbiamo perso una settimana comunque, perché si sta giocando a porte chiuse le partite che erano previste a porte chiuse una settimana fa. Abbiamo perso una settimana e io penso, per collegarsi alla telefonata abbastanza sarcastica dell'ascoltatore di prima, anche Vandanara non avrebbe fatto peggio di come è stato fatto dalla Lega. Sì, tu dici che avrebbe fatto meglio. Ma poi oggi abbiamo letto anche... Non peggio. Meglio non lo so, ma non peggio. Ecco. Dimmi, Pier. No, forse uguale. No, ma adesso al di là delle battute, io credo una cosa, che la situazione è cambiata, è in continua evoluzione. E quindi questa è una parziale scusante. È chiaro che lo spettacolo che ha offerto il calcio italiano è uno spettacolo pietoso, perché a leggere oggi il tipo di misure, le scuole chiuse, lo dicevo qualche giorno fa, che mi sembrava una follia giocare Juve-Milan di Coppa Italia a porte aperte quando sembrava che fosse a porte aperte con le scuole chiuse a Torino. Però voglio dirti, è pure vero che la situazione è cambiata molto in questi giorni, è pure vero che di questo virus non sappiamo nulla. C'è stato addirittura fra i virologi un dibattito, in qualche caso addirittura uno scontro fra più preoccupati e meno preoccupati, e questa è la verità. Una settimana fa io non ero contrario, sentivo anche su questa radio programmi giustamente di economia con dei punti di vista di aziende preoccupate dall'andamento che tendevano un po' a ridimensionare, ma legittimamente, cioè secondo me era proprio, era ovvio, cioè c'era gente che si chiedeva giustamente che tipo di figura stessimo facendo gli italiani, come se fossimo gli untori del mondo e gli unici a prendere un certo tipo di provvedimenti. Adesso è cambiato tutto di nuovo. Sì, ma è cambiata proprio anche la percezione di tutti. È cambiata la percezione, è cambiato il punto di vista. Io non sono un virologo, quindi per me il lodo Klopp è fondamentale. Non ci chiedete a noi ma cose perché non ce ne occupiamo. Noi ci occupiamo del pallone che rotola e di altre cose. Quindi voglio dirti, è chiaro che si è persa una settimana, è chiaro che è stata fatta una brutta figura, in certi momenti una bruttissima figura. È anche chiaro che qui la situazione cambia di giorno in giorno e onestamente una settimana fa o 10 giorni fa pensare di poter fare una partita come quella a porte aperte non era così peregrino, si no, è Napoli Torino era, era no? qualcosa cioè, che si immaginava si potesse provare a fare. Lazio Bologna si è giocato a porte aperte 4 giorni fa, 5 giorni fa, no? Sì, poi scrive un amico: perdonate, ma se si è deciso di giocare a porte chiuse, perché comunque non si gioca tutti allo stesso orario? Beh, ma almeno teniamo in piedi quelle due cose che ancora restano, tipo i diritti TV e le televisioni che hanno comprato le partite in orari differenti. Perché dire, già c'è qualche danno, sì. Mi fa pensare tu, a questo punto, queste settimane qui, tanto non ci sono le trasferte, perché i veri sacrificati del calcio spezzatino sono i tifosi che sono spesso costretti a degli orari assurdi e a dei cambi di programma. A questo punto facciamo proprio lo spezzatino. Sì, 10 partite in 10 orari diversi. In modo più sereno, stare a casa, stiamo a casa e guardiamo le partite. Questo è. Sandro, è lodo pardo, non so se ti piace. Ci sta, no, ma il fatto che non si potesse prevedere una settimana fa non ci sta però, Pierluigi, per un motivo molto semplice, perché comunque, proprio perché come hai detto tu, la situazione evolve, cambia di giorno in giorno, ma di sicuro l'esperienza che abbiamo visto, per fortuna da lontano, ma poi si è avvicinata dalla Cina, ci dà comunque dei parametri molto precisi su che, anche se non siamo virologi, comunque riusciamo a interpretare sull'espansione, sul numero che aumenta, e poi piano piano il numero va a diminuire. Ecco, detto questo, meno male che si gioca porte chiuse, porte aperte, meno male che si gioca. Meno male che si gioca a porte chiuse, se questo certo, può salvare delle vite umane, ma meno male che si gioca a porte chiuse, ma certo, tutta la vita, mi faccio pure un anno a porte chiuse. Se ieri sera Spezia Pescara Serie B si è giocato a porte aperte, un po' un cortocircuito. No, scusa, posso dire una cosa? Ha ragione Sandro, però l'input deve arrivare dalla politica. Cioè, se il governo ti dice o dà diritto ai prefetti a divide zona rossa, zona gialla e zona verde, poi non è che le società di calcio possano essere più realiste del re, non è per difenderle, però voglio dire, la politica, quello che ha fatto ieri, ma non parlo solo di calcio, anzi d'altro ieri sera, quello che è stato fatto, ieri sera con quel decreto, doveva forse farlo 15 giorni fa su tutti i settori della vita. Sapete che c'è una polemica anche per quanto riguarda, ad esempio, i musei, perché appunto, ma io lo capisco, c'è voglia da un lato di dire combattiamo la paura. Il problema è che qui non è l'11 settembre, non è la paura del terrorismo, non è la paura che ti caschi una tegola in testa, è una cosa che si alimenta semplicemente con le persone che si incontrano, per cui per un po' non dobbiamo incontrarci, anche se va contro la nostra filosofia, la nostra visione del mondo, l'economia dell'Occidente. Guarda che adesso, senza farla troppo filosofica, ma questo è veramente un bago del sistema dell'Occidente, che è basato sulla straordinaria velocità, sulla possibilità di muoversi e di farlo in fretta, portandosi dietro in questo caso anche un virus. Poi ieri, in un sussulto di senso di responsabilità, almeno è stata salvata la forma, tutti i eventi hanno votato insieme, tra qualche ora o forse tra qualche minuto vi potremo dare l'ufficialità del calendario. Questa mattina a Londra si sono incontrati Andrea Agnelli e Steven Zhang. Allora, vi faccio sentire che cosa ha detto Steven Zhang. When this individual proposed us to move a game just one day later in order to push and having the crowds going to a stadium, I think it was completely wrong. Security of a public health is definitely the most important thing. A lot of people think Allora, Steven Zhang dice: quando questo individuo, e ce l'ha evidentemente ancora con il presidente della Lega d'Alpino, ha proposto di spostare la partita avanti di un solo giorno, era nostro dovere dire di no, era moralmente completamente sbagliato in questa situazione, era mettere a rischio la salute, e per questo dicono che le mie parole sono state esagerate, invece penso che siano state leggere. C'era anche Andrea Agnelli, che ha svelato un retroscena. I know that my colleague Steve Zang will, has a similar position. I think we've shared it. I think we were discussing the epidemic, specifically in China, a couple of weeks ago, as he came over for dinner at my place. From there on, it is not the club's to decide what should and should not be done. Allora, dice Agnelli, so che Steven Zhang ha una posizione, due settimane fa ne abbiamo parlato, abbiamo cenato insieme, abbiamo discusso sull'epidemia, sulla Cina, non solo, lo stimo molto, e dice anche dell'impatto economico di questa situazione, ci occuperemo in una fase successiva, quello che conta adesso è la salute pubblica e la nostra posizione è stata chiara fin da subito. Oh, io non so Sandro che opinione hai tu, ma insomma, sentiti tutti e due, questa mattina abbiamo buttato via una settimana anche di discussioni inutili a proposito di complottismi, retroscena. Sì, anche secondo me, anche perché dice anche ci siamo trovati a cena a casa mia due settimane fa e abbiamo condiviso le misure di precauzione da prendere per controlli questa epidemia. Anche secondo me ci sarà stato un vuoto di potere, ci sarà stato un vuoto di comunicazione, ci sarà stato un'esagerazione di voler tutelare lo spettacolo e i tifosi. Però comunque la decisione che ha preso la Lega con Delpino di cancellare quella che era già un provvedimento di porte chiuse a distanza di una settimana mi risulta ancora di più incomprensibile dopo aver ascoltato queste parole di Zhang e di Agnelli. Detto questo, comunque, io appartengo a una generazione che, capito, non si diceva che si diceva una signorina di facili costumi, si diceva cavolo, ecco, quando uno si arrabbiava, se no, che i genitori si dicevano non si dicono parolacce. Quindi, detto questo, a me quel post di Zhang in cui dà del pagliaccio a un signore non ti piace. Ma De Modi credo che in tanti la pensino come te, io la penso come te, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione. Carlo, sai però, Zhang non chieda scusa, sinceramente. Ecco, questo non mi piace, continua a non piacermi, sinceramente. Cioè, che c'è di male? Io sulla sostanza sono d'accordo, siamo tutti d'accordo con Zhang, quantomeno nella forma, in certi autogol dialettici potrebbe anche chiedere scusa, non ci sarebbe niente di male, farebbe ancora più bella figura, ecco. Anche perché quando tu rettifichi la forma dai ancora più forza alla sostanza, nel senso che è proprio una delle basi della comunicazione, cioè nel dire ho esagerato con quell'epiteto, ma vi prego, prendete con attenzione le mie parole, penso che siamo tutti d'accordo. Mi viene in mente una cosa, voglio citare Marco Iaria, io non ho mai capito, Gazzetta dello Sport, soprattutto Gazzetta dello Sport, sulle questioni diciamo più di politica sportiva, e lui qualche giorno fa, nel momento della bufera apparentemente fra Juve e Inter, aveva fatto un tweet, secondo me molto giusto, sottolineando che il rapporto, la relazione fra Agnelli e Zhang è una relazione molto buona. Cioè, i rapporti tra le società sono rapporti, e poi ci saranno le rivalità, per carità, Conte sicuramente vivrà questa sfida con un particolare pathos, marotta, tutto quello che vuoi, però dal punto di vista proprietario sono insieme all'ECA, sono allineate su mille elementi, quindi questa cosa qui ieri l'aveva sottolineata e le parole di oggi in qualche modo lo confermano. Sì, ma se ricordi anche qui da noi Agnelli aveva detto l'idea di giocarmi lo scudetto fino alla fine con Steve. È un'idea che mi piace molto. Sì. Quindi posso dire una cosa, visto che nei giorni scorsi si è molto, giustamente, perché fa parte della dialettica fra tifosi, alzato il volume, a questo punto l'invito è, visto che questo rapporto non è un rapporto di facciata, secondo me possono anche fare qualcosa di plateale, no? Cioè, ma io credo che l'abbiamo fatto questa mattina, perché presentarsi insieme a Londra a ormai tre giorni da Juventus Inter in questo clima e con queste polemiche e dire con nettezza le cose che sono state dette, io credo veramente sgomberi il campo da mille discorsi fatti. Alla spagnola potrebbero vedere la partita una accanto all'altro, sarebbe un segnale secondo me importante. A un metro di distanza, a un metro 82 di distanza, ci mancherebbe altro, come dobbiamo fare tutti, ma perché da un lato abbiamo bisogno della normalità del calcio, e la normalità del calcio è fatta anche dello sfottò, è fatta anche del baffa, è fatta anche della rivalità feroce. Dall'altra, però, in un momento come questo, le persone di maggiore responsabilità, secondo me, hanno un grande potere. E quindi mi piacerebbe che questo è il secondo lodo pardo della giornata. Allora facciamo così: 349-238-6666. Mandatemi sms e whatsapp se siete d'accordo con lodo 1, e cioè 10 partite in 10 orari diversi da qui affinché ci saranno le porte chiuse, con il lodo 2 Zanghe Agnelli a un seggiolino di distanza domenica sera, o quando ce la guadagniamo soldi, confermeranno a vedere la partita. Soldi, no, però, la prima cosa. Beh, si potrebbe anche fare il lodo 3. Si potrebbe anche fare il lodo 3. Se siete d'accordo, allora, versate. Fai una cosa, però, fammi fare il lodo Sabatini prima di congedarmi. Vai. Non è importante quello che viene, non è importante quello che viene fatto prima o durante le partite. È importante se Agnelli, Zhang, Sarri, Conte, Paratici, Marotta, Bonucci, ci siamo capiti, riconoscessero a fine partita complimenti all'avversario, anche a costo di fare i complimenti al rivale storico che ha vinto. Ecco, questo secondo me è l'esempio che farebbe bene anche, sarebbe un bel segnale anche ai tifosi, perché i tifosi, parliamoci chiaro, i tifosi parlano di campionato falsato, non aspettano altro che di dire campionato falsato. Sì. Dipende da come orientarsi sul risultato di domenica, ecco. Intanto i lodi pardo stanno riscuotendo grande successo, più il secondo del primo, però vabbè, il secondo è quello più popolare perché è buonista. Il primo, secondo me, io sono appassionato di calcio, cioè mi mettono che c'è Parma Sassuolo il Parma Spalle e Sassuolo Brescia, se me le mettono separate magari me le vedo tutte e due. Ah, ma certo, detto questo, io l'altra sera ho fatto, l'altro domenica scorsa ho fatto proprio il percorso netto, chiusa la parentesi, io credo che stia un po' cambiando anche la percezione, purtroppo, nel senso che noi vediamo ogni giorno l'andamento dei social, le preoccupazioni, parliamo con gli amici, parliamo con i parenti, abbiamo le chat, chi c'ha i figli c'ha la chat delle mamme e dei papà. Da due o tre giorni è cambiato molto il percepito, cioè due o tre giorni fa onestamente ancora c'era la discussione porte aperte, porte chiuse, a chi conviene, ma Conte vorrà vedere i suoi ex tifosi oppure no, ma c'è un vantaggio, c'è uno svantaggio, avete spostato la partita. Oggi purtroppo, sottolineo, secondo me abbiamo tutti un altro umore, un altro stato d'animo, e quindi insomma forse oggi quella discussione lì è un po' fuori tempo massimo, speriamo che fra poco ci si possa tornare a incazzare per i rigori o per ti basta aspettare tre giorni, ti do appuntamento qui lunedì alle 14:05. sono sicuro che discuteremo di rigori, VAR e dintorni. Grazie Sandro, ciao, grazie, ti voi. Saluto, ciao, grazie. Guarda, c'è chi scrive tutte le partite in chiaro per legge, altrimenti ci passiamo il virus tra amici a casa o al bar. Non si può fare, ci siamo già passati settimana scorsa. Oh, c'è un altro lodo: si può fare il tifo con le casse acustiche tipo concerto, così i giocatori si caricano. Oh, mi raccomando, non andate fuori dagli stadi a immaginare di poter fare il tifo da fuori, perché altrimenti finisce che non si gioca e basta, perché non abbiamo risolto il problema. Adesso, carissimo Pier, saluto Walter Novellino. Ciao Walter. Ciao, bisogna chiudere anche le borse però. Le borse? In che senso? Le borse, tutti gli affari. No, ma lì si fa tutto col computer, Walter. Da tempo. No, per lui, noi adoperiamo anche il computer, sempre questo. Hai visto? Quindi, allora, è aperta la caccia a chi ci ha guadagnato di più con la sistemazione del calendario. Dai, si è aperta ieri un minuto dopo che hanno trovato l'accordo in Lega. Secondo te, Walter? Ma intanto hanno fatto bene a trovare un accordo, hanno fatto bene a chiudere veramente, perché è un momento particolare, come dicevate prima. Chi ha più vantaggi, è chiaro che giocare senza tifosi non è bello, però in questo momento le squadre devono giocare in questa maniera. Ci sono squadre che possono trarre dei vantaggi, le squadre che giocano anche fuori casa, che fanno queste partite fuori casa e possono avere dei vantaggi, però le squadre, quelle forti, giocheranno sempre per vincere, ecco. Poi si ricomincia col botto con Juventus-Inter. Allora proviamo a riannodare il filo, ci eravamo lasciati con la Juventus in crisi dopo Lione e con l'Inter che cercava di recuperare Handanovic ed era un po' all'ultima spiaggia. Io non so se dopo 11 giorni siamo di nuovo lì, Pier, Walter. Ma io penso che per l'Inter questa pausa, per la Juventus scusa, era una pausa necessaria, perché dovevamo riflettere su tante cose. Io credo l'Inter ha bisogno anche lei di giocare, sono due squadre che stanno lottando, però io vedrei, farei attenzione anche alla Lazio. La Lazio in questo momento è la squadra che secondo me è quella più in forma, al di là delle chiusure degli stadi. La Lazio è una squadra che è compatta, unita, giocano da diversi anni insieme. Io credo, ecco, sono squadre che lotteranno sicuramente, al di là del discorso delle chiusure degli stadi, ecco. Sì, il coronavirus, Pier, ci ha fatto dimenticare per 11 giorni le critiche a Sarri, che però resta nella posizione in cui era 11 giorni fa. Sì, e poi io penso che un effetto le porte chiuse ce l'avranno, non so dirti quale. Però io penso che sarà un altro gioco, sarà un po' un altro sport, quindi non so dirti chi verrà aiutato di più o chi verrà aiutato di meno. Certamente nella singola partita la squadra fuori casa, il fattore campo dovrebbe cessare di esistere, però io veramente non lo so, non so dirti che tipo di influenza avrà, di influenza, brutta parola di questi giorni. Comunque, per quanto riguarda la Juve, la situazione è quella di 11 giorni fa, c'è bisogno di risposte pratiche. È chiaro che forse questo aver staccato la spina può essere utile, no? Questo essersi un po', tra virgolette, depurati dalle tossine delle ultime prestazioni potrebbe dare un po' di forza in più. Poi c'è stata comunque la vicenda di Cristiano Ronaldo, che non è un dettaglio, e gli mandiamo un abbraccio ovviamente, perché comunque quando sei in pensiero per la persona che ti ha messo al mondo, insomma, la reazione può essere di vari tipi. Cristiano Ronaldo da questo punto di vista è una macchina, lo ha dimostrato mille volte, banalmente l'ha dimostrato nel giorno del famoso processo fiscale in Spagna, quando fece tripletta contro gli spagnoli, Spagna-Portogallo 3-3. È uno che agli shock emotivi ha sempre reagito in maniera molto, molto forte, però insomma, questa volta, anche se la situazione, non so se hai notizie fresche, però il fatto che sia tornato ad allenarsi ovviamente significa che le cose vanno migliorando, ci dà un po' di respiro, un po' di fiducia. Però anche questo è un elemento importante, perché Cristiano Ronaldo non è uno degli 11, è il 50% ultimamente, no? Sì, quindi è un po' come lo è Lukaku dall'altra parte, perché questa è anche una meravigliosa sfida tra due attaccanti. Voglio chiedere a Walter Novellino se secondo lui questi 10 giorni sono stati sufficienti a Conte per preparare un Inter diversa per inserire Eriksen, ad esempio. Sì, sicuramente Eriksen aveva bisogno di questo, di lavorare, di stare un po' più insieme, ecco. Tra l'altro, dire insieme adesso diventa un po' difficile. Al di là di questo, io penso che l'Inter è una squadra che è compatta anche lei, ci sono Lukaku, come dicevate prima, è un giocatore straordinario. Credo che sono due squadre, ecco, l'Inter e la Juventus devono dare una risposta a quello che non si è visto in queste ultime settimane. Io credo questo. È una partita molto difficile, sicuramente. Sì, difficile anche da pronosticare. Grazie Walter. Grazie a voi. Grazie, ciao. Grazie a Walter Novellino. Allora, va bene, arrivano tanti messaggi, Pierre. C'è anche chi ha giocato 20 anni a pallavolo a porte chiuse, nel senso che non andava nessuno a vederlo. E quindi non trovo oggi la differenza. A porte quasi, da ragazzo giocava a basket, non erano proprio chiuse, ma c'erano 50 persone. No, certo. Vediamoci su, dai. Sì, poi c'è chi ci accusa di dimenticare di dire che ieri Steven Zang ha donato 100.000 euro all'ospedale la ricerca. Lo diciamo, facciamo un applauso, e insomma, bel gesto, e che ognuno faccia quello che può. Cioè, non è che Zang è un grande presidente, l'ho detto anche quando era l'altro ieri, è uno che ha messo un sacco di soldi nel sistema calcio italiano, sta facendo le cose in grande, ha fatto delle scelte oggi eccellenti, ineccepibili. Mille volte in questa radio io ho detto che anche le cessioni dolorose, i prestiti dolorosi che ci sono stati quest'estate, sta pagando tutto. Lukaku non ha fatto minimamente rimpiangere Riccardi, Nainggolan è un ottimo giocatore, ma comunque il centrocampo è riuscito a sopperire, Perisic non ricordi più, quindi anche dal punto di vista tecnico ha fatto delle scelte giuste, con Marotta ha imposto disciplina, quindi cioè, i complimenti per Zang sono totali, e su questa vicenda ci sta anche che lui sia probabilmente emotivamente più colpito di noi, perché l'ha vissuta nel suo paese. Il tono di quella storia per me è sbagliato. Sì, ma ripeto, resta criticabile, però insomma, che finisce per togliere anche efficacia, o comunque rischia di togliere di diventare il titolo, mentre le cose giuste che secondo me lui ha detto potevano essere argomentate in maniera diversa. Tutto qua. È proprio. Sì, e non ha senso parlare, come fanno in tanti, scrivendo di obolo per lavarsi la coscienza. Le due cose sono diverse. Cioè, la questione che poi risolverà la giustizia sportiva di quel post. E poi c'è invece un atto che è certamente un atto da applaudire. Stai lì, Pierre. Se lo fanno tutti i presidenti diventano 2 milioni. Quindi a sacco hanno sicuramente più fondi per fare la ricerca. 800 24 0024, numero verde per intervenire in diretta. Chiamatevi, passiamo subito dopo la borsa. Siccome che si gioca a porte chiuse per evitare contatti, ma se i giocatori fanno gol, si possono abbracciare o devono stare a un metro di distanza? Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Visto che sono vietati anche i viaggi in pullman, le gite, tutti gli assemblamenti, ma i giocatori allo stadio nelle varie partite con cosa ci vanno? Non vanno in pullman? Ma scusate, se si gioca a porte chiuse come fanno a far gol? Vabbè, questa è una battuta che gira da qualche giorno. Sì, ma da tutto ciò che fa ridere o anche che fa sorridere va bene. No, fra le varie cose, fra le suggestioni invece su social network c'è una persona che dice di far girare, visto che diciamo, il giorno dei lodi, la proposta che se uno eventualmente che si possa rigocciare al rimborso del biglietto e darlo direttamente in beneficenza, questo anche se poi alla fine dico alla persona che me l'ha scritto che alla peggio uno si fa rimborsare il costo del biglietto e poi fa la beneficenza lui, quindi alla fine non cambia molto, poi fa direttamente. Se può essere anche questa una cosa utile, magari un rimborso che sia a metà, diviso a metà, no, una formula, ma ci devono pensare gli esperti di marketing, fra la società e il tifoso, può essere utile per incentivare la ricerca. E più che la ricerca, qui direi proprio adesso la logistica, perché sai che a Juan hanno fatto praticamente un ospedale in due settimane. Sì. E da quello che capiamo, ascoltando questa radio e tutte le altre radio tutti i giorni, poi il tema vero in questo momento è soprattutto della tenuta del sistema sanitario italiano, no? Quindi proprio del numero di posti servono delle strutture. Va bene, a proposito di strutture e infrastrutture, più leggero, ma insomma noi di questo ci occupiamo. Un'ora fa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha scritto nero su bianco una lettera alla famiglia Viola per annunciare che la Fiorentina non parteciperà al bando per l'area Mercafir, dove doveva costruire il nuovo stadio, perché costa troppo, non ci sono certezze né burocratiche né di tempi né di potenzialità per fare quello che la Fiorentina voleva fare. E quindi, come in un immenso gioco dell'oca, 8 mesi dopo si comincia dalla casella 1. Magari nei prossimi giorni torniamo a parlarne, Pierre, ma insomma sarebbe l'ennesima conferma. In un momento in cui Firenze ha tanti problemi, insomma, ho letto le parole di Ardella, che tra l'altro io personalmente stimo, perché è un sindaco che ha fatto tante cose buone, ma al di là di questo, che praticamente non dorme la notte perché c'è una riduzione di numeri nei musei, negli alberghi, insomma è chiaro che in questo momento chi soffre di più sono soprattutto le città d'arte. Sono discorsi diversi rispetto a quelli dello stadio. Grazie Pier, ci tuffiamo nel resto dello sport. Ciao a venerdì. Ciao Pier, saluto Flavio Vanetti. Ciao Flavio, Corriere della Sera. Ciao a tutti. Allora, il bollettino di oggi, pochi minuti fa, 6 nazioni, rugby rinviata Italia-Inghilterra del 14 marzo, rinviate anche le sfide del torneo femminile e Under 20, oggi cancellata anche le strade bianche, parliamo di ciclismo, che si doveva correre a Siena, ha deciso il prefetto, poi basket e volley ripartono a porte chiuse, in realtà nel basket si sta litigando. questa sera porte chiuse per l'Olimpia contro Valencia fuori casa, e la Virtus Bologna gioca a Belgrado in campo neutro contro i turchi del Darussafaka, perché in Turchia gli italiani non li fanno atterrare. Maratone varie che vanno verso la cancellazione, finale di Cortina di Sci appesa un filo, si lavora almeno per poter scendere e salvare i contratti TV. Il tennis, Coppa Davis domani a Cagliari, Italia Corea del Sud, porte chiuse e chiuse anche le sale stampa, nel senso che i giornalisti italiani lavorano in una sala e quelli coreani in un'altra. Questo è il quadro, Flavio, dello sport al tempo del coronavirus. Sì, diciamo che forse però sullo sci c'è probabilmente vediamo domani cosa decide la FIS, ma può essere che le finali siano salve sempre con questo criterio delle porte chiuse, anzi semi chiuse, nel senso che poi dovrebbero entrare anche gli operatori media, da quello che ho capito, oltre appunto tecnici, allenatori e atleti ovviamente. Che dire, a me sembra una cosa incredibile che quando è esploso il fatto cinese, cioè quando la Cina è esplosa inizio gennaio con questa problematica, nessuno si sia, come dire, peritato di farsi una domanda: ma se succede che arriva anche dalle nostre parti, cosa facciamo? Quindi vale, secondo me, per i governanti, per i politici che si sono fatti prendere il contropiede da tutta questa emergenza, poi gestendo a mio avviso anche dal punto di vista della comunicazione in maniera catastrofica, ma anche lo sport, in fondo non si è fatto la domanda: ma se arriva questo benedetto virus in Europa e in Italia segnatamente, come ci comportiamo, come ci regoliamo? Forse magari certe polemiche potevano anche essere sterilizzate parlando in anticipo, facendo un minimo di programmazione e di ipotesi, di scenari a seconda di quello che poteva succedere. Invece cosa che ci si augura si stia facendo adesso a proposito dell'Europeo per il calcio e delle Olimpiadi in generale. Speriamo, anche se ad esempio sui giochi vedo questo Bach che, per carità di Dio, io sono assolutamente dell'idea che bisogna avere una mentalità positiva, però forse lui ce l'ha anche un po' troppo positiva, nel senso che mi sembra che stia un po' trascurando delle ipotesi alternative, perlomeno le tiene sospese. Si parla di uno slittamento, perché si possono fare entro la fine dell'anno i giochi olimpici e senza far perdere al Giappone il diritto appunto di ospitarli. Però mi sembra che ci sia un po' ottimismo, in fondo non manca moltissimo. Poi ci sono tutti anche i tornei preolimpici da gestire di vari sport, molti dei quali in questo momento sono cancellati. Sono cancellati 3 contro 3, visto i bassi, insomma. C'è uno scenario di contorno ai giochi olimpici che sta andando in una certa direzione. Ora, ripeto, io voglio essere positivo e credo che, penso, alla fine riusciremo a fare le Olimpiadi, anche perché se l'emergenza durerà fino a tarda primavera, allora sarà veramente un bel macello. Però bisogna cominciare anche a prevedere qualcosa di alternativa. Mi sembra che in questo momento nel CIO, almeno ufficialmente, non ci sia questa disponibilità, questa volontà, e credo sia un errore tutto sommato. A discuterne almeno ufficialmente, poi io immagino che nelle segrete stanze il piano B, C e D in queste ore venga disegnato. Ce l'auguriamo. Io sono abbastanza curioso domani, Coppa Davis, Cagliari, Italia, Corea del Sud, di guardare i tennisti fai da te, un po' come noi tennisti la domenica dovranno andarsi a recuperare le palline, perché non ci saranno evidentemente i raccattapalle, dovranno prendersi da soli il telo, ma questo insomma è il meno. Però si torna indietro, io non so di quanti decenni. Io le memorie quando giocavo a tennis, appunto, ci si arrangiava appunto con le, a raccattare le palle, a regolare la rete e fare tutte queste cose. Io non, sinceramente non ho memoria, non ricordo quando il tennis a livello professionistico appunto aveva tutte queste 6 cose, ma sicuramente una rivoluzione culturale. E chissà che magari certe cose non servono anche a far rivedere un po' alcuni canoni del nostro sport, magari in uno sport che è anche un po' troppo, come dire, privilegiato sotto certi aspetti, anche sotto elementi di contorno. Chissà, può essere un'occasione per rimeditare e ripensare un po' tutto, ecco, non solamente a livello di vita sociale. Certo, poi c'è il ciclismo, che è condannato dalla sua straordinaria caratteristica popolare, e cioè di essere a porte aperte per definizione, sì. Perché la verità è che rischia anche la Milano-Sanremo, per intenderci, che è in programma tra una quindicina di giorni, rischia la Tirreno Adriatico, rischiano le classiche, se dovesse poi estendersi anche al nord Europa il contagio. Io però faccio un discorso. Allora, capisco che adesso il problema è fondamentalmente organizzativo, c'è il rischio ovviamente del collasso del sistema sanitario, ci potrebbe essere un aumento sconsiderato di casi, di gente che ha bisogno di assistenza e di terapia intensiva. E c'è questa ormai questa tendenza appunto a cercare di limitare questi eventi che coinvolgono un sacco di persone, però mi è capitato proprio nei giorni scorsi capitare in un outlet e ho trovato il mondo assemblato in coda ai punti di ristorazione dentro i vari esercizi. Allora ho anche il sospetto che ci sia anche un po' di incoerenza. Io per carità, io sono contento di aver visto il mondo in questo outlet, che vuol dire che c'è ancora una voglia di avere una vita sociale pur nelle morti di un'emergenza reale. Però mi domando che senso abbia allora a questo punto avere delle misure restrittive nei confronti cinema, teatri o forse anche al fine dello stesso sport, se poi si consentono certe eccezioni. Non lo so, questo me lo devono spiegare. Ecco. Credo che sia giocato tutto sulla rinuncia al futile, ammesso che lo sport sia il futile e noi questo concetto lo combattiamo andare a fare shopping, qui da qualche non è che giorno. Sia poi così necessario, magari ci sarà andare a prendere il cibo nei supermercati, ma forse magari lo shopping si può anche magari rinviarlo, shopping inteso che non siano appunto beni di prima necessità, vestiti per vestirsi, ma lì c'è proprio la classica situazione del tempo libero, dell'andare a fare qualcosa, di vedere eccetera, quindi non lo so se fosse veramente così necessario, però ripeto, sono interpretazioni, sono anche pensieri soggettivi. Sicuramente io vedo molte cose un po' alla Carlona, ecco, da un lato una grande severità e dall'altro magari ci sono anche delle maglie troppo larghe, non so. Grazie Flavio. Grazie a voi. Grazie Flavio Vanetti, Corriere della Sera, e siamo all'ultimo blocco, ci occuperemo della guerra della Formula 1. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Non è tanto il problema delle porte chiuse, il problema è andare negli stati e avere la possibilità di poter entrare in questi stati. Qui in Qatar sarà un gran premio tra virgolette a porte chiuse, non ci saranno pass griglia, gli ospiti non possono venire, quindi anche qui la situazione è particolare. L'importante è cercare di capire se i prossimi gran premi si svolgeranno e se avremo la possibilità di entrare in questi stati. Adesso cerchiamo innanzitutto di portare a termine questo gran premio, peccato per la MotoGP perché sarebbe stato senza dubbio uno spettacolo diverso, però abbiamo grandi campioni anche in Moto2 e Moto3, quindi lo spettacolo ci sarà comunque e speriamo di tornare alla normalità più presto possibile. Questo è Loris Capirossi, parlo ovviamente della MotoGP che non si corre in Qatar e per il momento non si corre neanche in Thailandia, ci si aggiorna ad aprile per l'inizio del mondiale, mentre resiste stoicamente la Formula 1 in Australia e i team si stanno menando di santa ragione. Umberto Zappelloni, ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori, grazie per la convocazione. Grazie a te, che succede tra la Ferrari e tutti gli altri? Succede che la rissa continua, c'è di pochi minuti fa la risposta della FIA, della Federazione Internazionale, alla lettera dei 7 team alleati contro la Ferrari ma anche contro la Federazione. È un lungo comunicato da cui si evincono due cose: uno, che il motore della Ferrari dello scorso anno non era perfettamente regolare, ma che la Federazione Internazionale non è riuscita a dimostrarlo e che la Ferrari ha sostenuto che invece quel motore era regolare e sarebbe costato troppo andare avanti nelle investigazioni, che tra l'altro non avrebbero potuto dare un risultato certo, tanto era complicata la vicenda. Così si è raggiunto questo agreement, di cui però neppure il comunicato di oggi del federale dà conto. Questo cosa vuol dire secondo me? Vuol dire che la Ferrari è stata molto brava a infilarsi in una delle tante zone grigie del regolamento, che però qualcuno poi ha spifferato la cosa alla concorrenza, che si è fatta risentire con la FIA, e quel qualcosa che ha fatto della Ferrari una vettura vincente nella parte post-estate dello scorso anno, quindi dai Gran Premi di Spa, di Monza, di Singapore e anche fin dei conti di Suzuka, la Ferrari aveva qualcosa in più che poi è venuto a mancare e ci hanno sempre raccontato che non era dovuto a questo, e invece evidentemente oggi possiamo dire con una certa certezza che il calo di prestazioni della Ferrari è dovuto al fatto che quanto aveva provato sul motore è stato poi non più utilizzato. Quindi non aveva tutti i torti Verstappen. Esattamente, quello che mi veniva da dire, da aggiungere, è che il signor Verstappen, quando ha detto ci credo, non barano più, non aveva tutti i torti, anche se non possiamo dire che la Ferrari barava, perché se la federazione ne fosse certa al 100% avrebbe squalificato la Ferrari, portandole via un secondo posto nella classifica dei costruttori che vale una ventina di milioni di euro, quindi soldi pesanti per la concorrenza che li avrebbe incassati, e una figura terrificante per una società quotata in borsa come la Ferrari, che è sempre stata paladina della legalità delle corse. Per cui si chiude con una, diciamo, con la conferma che anche la Ferrari aveva fatto qualcosa per interpretare le zone grigie del regolamento che le avevano dato un vantaggio. Io lo paragono un po' a quello che sta succedendo adesso con il DAS della Mercedes. La Mercedes lo ha portato in pista dopo aver avuto un ok di massima dalla federazione, ma quando i team hanno cominciato a obiettare, la federazione, guarda caso, lo ha bloccato per l'anno 21. Anche la Mercedes, abbiamo detto, bravi a interpretare il regolamento e la zona grigia dei regolamenti, e la Ferrari ha fatto altrettanto col motore lo scorso anno, evidentemente. La Formula 1 purtroppo è così complicata che spesso chi vince è il più bravo a girare il regolamento. A piegarlo alle sue scoperte e anche alle sue visioni, perché poi molti di questi progettisti sono in realtà dei visionari. Assolutamente. Che vanno a lavorare sui dettagli. È chiaro che tutto questo casino all'antivigilia della partenza della stagione, per quanto una stagione che per la Ferrari sarà in salita, che probabilmente non vedrà la Ferrari competitiva per la conquista del mondiale, insomma tutto quello che abbiamo raccontato in questi giorni di test, è chiaro che lo scoppio di questo caos mette la Ferrari in una posizione difficile. Difficile, anche guardando al futuro. Mette molta pressione sulla Ferrari, che già ne aveva abbastanza, anche perché per queste ore una lettera che Binotto ha mandato a tutta l'azienda, in cui spiega un po' come sono andate le prove invernali e racconta che la Ferrari non va in Australia per vincere perché non ne ha le armi, anzi fa quasi capire che bisognerà aspettare il ritorno della Formula 1 in Europa perché la Ferrari possa essere competitiva in un certo modo. Quindi non credo che lui si stia coprendo con i suoi dipendenti, evidentemente il problema c'è, la Ferrari non è ancora riuscita a risolverlo al 100%, ma i risultati dei test della scorsa settimana sono più veri di quello che anche gli avversari della Ferrari pensavano. Sì, un anno fa eravamo qui a illuderci con in mano i risultati dei test, questa volta il quadro si è completamente ribaltato. Oh, Umberto, quanti ritratti sono dedicati alla Ferrari nella storia della Formula 1 in 50 ritratti, centauri a libri che firmi? Grazie per parlare di questo libro che è appena uscito. Ce ne sono parecchi, posso dire che in copertina, ad esempio, tu hai Enzo Ferrari, perché Enzo Ferrari non può mancare da una storia della Formula 1, e hai comunque Michael Schumacher, che è il pilota che ancora detiene il record dei record, il numero dei 7 campionati del mondo. Però all'interno hai personaggi che hanno fatto la storia della Ferrari in pista, perché hanno vinto con la Ferrari dei titoli mondiali, o personaggi che hanno contribuito a creare la leggenda Ferrari, come Mauro Forghieri o come Luca di Montezemolo, ad esempio, in un ruolo o nell'altro, sono stati fondamentali nella storia della Ferrari, o piloti come Gilles Villeneuve, che magari non hanno vinto un mondiale, ma che riempiono il cuore dei tifosi della Ferrari più di chiunque altro. Ma ci sono anche tanti altri, non soltanto dedicato alla Ferrari, perché la storia della Formula 1 per noi italiani è molto Ferrari. Aveva riconosciuto che poi personaggi come Colin Chapman, come Bernie Eccleston, hanno comunque scritto qualcosa di importante nella storia dei 70 anni di questo sport. E poi c'è anche spazio per una signora, perché mi è piaciuto anche raccontare Lella Lombardi, che è l'unico pilota donna che è riuscita a conquistare mezzo punto nel mondiale di Formula 1, e approfittare di lei per raccontare un po' l'universo femminile che ha cercato di mettersi al volante di una Formula 1 e fino adesso non è riuscito con grandissimi risultati. Sarebbe strepitoso se tra qualche anno si dovesse fare l'integrazione aggiungendo il ritratto di Carletto Leclerc. Noi lo teniamo qui come speranza. Vai tranquillo che Carletto Leclerc c'è, è stato l'ultimo a entrare in questa, perché quando ho cominciato a lavorare al libro Carletto Leclerc come tutti c'era. I predestinati poi, del resto. Poi quando ha cominciato a vincere a Spa e a Monza è diventato il più giovane vincitore con una Ferrari nella storia della Formula 1, e mi ha dato lo spunto per inserirlo insieme a Verstappen, che è il vincitore più giovane di sempre dei Gran Premi. Loro rappresentano un futuro, ma in fin dei conti hanno già scritto una piccola parte della storia di questi 50 anni di Formula 1. Quindi Leclerc c'è, la storia della Formula 1 in 50 ritratti. Umberto Zappelloni, che ringrazio, ciao direttore, alla prossima. Grazie a voi, buon pomeriggio, alla prossima. A presto, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.